Lontano, seconda parte, dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Lontano, seconda parte. Capitolo 4. Lars Cleen, appena solo, si sentiva come caduto in un altro mondo, più luminoso, di cui non conosceva che tre abitanti soli e una casa. Anzi, una camera. Non si rendeva ragione di quei dispettucci di Venerina. Non si rendeva ragione di nulla. Tendeva l'orecchio ai rumori della via, si sforzava di intendere, ma nessuna sensazione della vita di fuori riusciva a destare in lui un'immagine precisa. La campana, sì. Ma egli vedeva col pensiero una chiesa del suo remoto paese, un fischio di sirena, ed egli vedeva l'Hammerfest perduto nei mari lontani. E com'era restato una sera, nel silenzio, alla vista della luna, nel vano della finestra. Era pure la stessa luna che egli tante volte in patria, per mare, aveva veduta. Ma gli era parso che lì, in quel paese ignoto, ella parlasse ai tetti di quelle case, al campanile di quella chiesa, quasi un altro linguaggio di luce, e l'aveva guardata a lungo, con un senso di sgomento angoscioso, sentendo più acuta che mai la pena dell'abbandono, il proprio isolamento. Viveva nel vago, nell'indefinito, come in una sfera vaporosa di sogni. Un giorno finalmente s'accorse che sul coperchio della cassetta erano scritte col gesso tre parole. Bet, bet, bet, così. Domandò col gesto a Venerina che cosa volessero significare. E Venerina pronta, tu, Bet! Lars Cleen restò a guardarla con gli occhi chiari, ridenti e smarriti. Non comprendeva, o meglio, non sapeva credere che... No, no, e con le mani le fece segno che avesse pietà di lui, che tra poco doveva partire. Venerina scrollò le spalle e lo salutò con la mano. Buon viaggio! No, no, fece di nuovo il Cleen col capo, e la chiamò a sé col gesto. Aprì la cassetta e ne trasse una veduta fotografica di Trondheim. Vi si vedeva, tra gli alberi, la maestosa cattedrale marmorea sovrastante tutti gli altri edifici, col camposanto prossimo, ove i fedeli superstiti si recano ogni sabato a ornare di fiori le tombe dei loro morti. Ella non riuscì a comprendere perché le mostrasse quella veduta. «Ma mère, ici!» s'affannava a dirle il Cleen, indicandole col dito il cimitero, lì, all'ombra del magnifico tempio. Anche lui, come Don Pietro, non era molto padrone della lingua francese, che del resto non serviva affatto con Venerina. Trasse allora dalla cassetta un'altra fotografia, il ritratto d'una giovine. Subito Venerina vi fissò gli occhi, impallidendo. Ma il Cleen si pose accanto al volto il ritratto, per farle vedere che quella giovine gli somigliava. «Ma sœur!» aggiunse. Questa volta Venerina comprese e si larò tutta. Se poi quella sorella fosse fidanzata o già moglie del giovane marinaio che aveva recato la cassetta, Venerina non si curò più che tanto di indovinare. Le bastò sapere che Larso era celibe. Sì, ma non doveva ripartire fra pochi giorni. Era già in grado di uscire di casa e di recarsi a piedi, sul tramonto, al Molo Vecchio. Una frotta di monellacci scalzi, stracciati, alcuni ignudinati, abbrustiti dal sole, seguiva ogni volta Lars Cleen in quelle sue passeggiate. Lo spiavano, scambiandosi ad alta voce osservazioni e commenti che presto si mutavano in lazzi. Egli, stordito, abbagliato nell'aria che grillava di luce, si voltava ora verso l'uno, ora verso l'altro, sorridendo. Talora gli toccava di minacciare col bastone i più insolenti. Poi sedeva sul muricciolo della banchina a guardare i bastimenti ormeggiati e il mare infiammato dal riflesso delle nuvole vespertine. La gente si fermava a osservarlo, mentre egli se ne stava in quell'atteggiamento, tra smarrito ed estatico. Lo guardava, come si guarda una gru o una cicogna stanca e sperduta, discesa dall'alto dei cieli. Il berretto di pelo, il pallore del volto e l'estrema biondezza della barba e dei capelli attiravano specialmente la curiosità. Egli alla fine se ne stancava e piano piano rincasava, triste. Dalla lettera lasciatagli dal compagno, insieme col denaro, sapeva che l'Hammerfest, dopo il viaggio in America, sarebbe ritornato a Porto Empedocle fra 6 mesi. Ne erano trascorsi già 3. Volentieri si sarebbe rimbarcato sul suo piroscafo di ritorno. Volentieri si sarebbe riunito ai compagni. Ma come trattenersi 3 altri mesi, così, senza più alcuna ragione, nella casa che lo ospitava? Il Miglio aveva già scritto al console in Palermo per fargli ottenere gratuitamente il rimpatrio. Che fare? Partire o attendere? Decise di consigliarsi col Miglio stesso, una di quelle sere, al ritorno dalla pesca dei gronghi. Venerina assistette dopo cena a quel dialogo, che voleva essere in francese, tra lo zio e lo straniero. Dialogo! Si sarebbe detto diverbio piuttosto, a giudicare dalla violenza dei gesti ripetuti con esasperazione dall'uno e dall'altro. Venerina, sospesa, costernata, a un certo punto, nel vedersi additata rabbiosamente dallo zio, diventò di bragia. E che? Parlavano dunque di lei? A quel modo? Vergogna, ansia, dispetto le fecero a un tratto tale impeto dentro che appena il Cleen si ritirò, saltò su a domandare allo zio. Che c'entro io? Che avete detto di me? Di te? Niente, rispose Don Pietro, rosso e sbuffante dopo quella terribile fatica. Non è vero. Avete parlato di me. Ho capito benissimo. E tu ti sei arrabbiato. Don Pietro non si raccapezzava ancora. Che t'ha detto? Che t'ha inventato? Incalzò Venerina tutta accesa. Vuole andarsene? E tu lasciala andare. Non me ne importa nulla, sai, proprio nulla. Don Paranza restò a guardare ancora un pezzo la nipote, stordito, con la bocca aperta. Sei matta? O io? All'improvviso si diede a girare per la stanza come se cercasse la via per scappare e agitando per aria le manacce spalmate. Che asino! Gridò. Che imbecille! Osso marone! A 78 anni! Mamma mia, mamma mia! Si voltò di scatto a guardare Venerina, mettendosi le mani tra i capelli. Dimmi un po', per questo mi hai domandato... Per dirlo a lui in francese? Che ero bestia! No, non per te che hai capito! Di nuovo Don Pietro, con la testa tra le mani, si mise ad andare in qua e in là per la stanza. Bestione! Somarone, dico poco! Ma quella Bertuccia di tua zia, che ha fatto qui? Ha dormito? Porco diavolo! E tu? E questo pezzo di... Aspetta, aspetta che te l'aggiusto io, ora stesso! E in così dire si lanciò verso l'uscio della camera, dove s'era chiuso il Cleen. Venerina gli si parò subito davanti. No! Che fai, zio? Ti giuro che egli non sa nulla. Ti giuro che tra me e lui non c'è stato mai nulla. Non hai inteso che se ne vuole andare? Don Pietro restò come sospeso. Non capiva più nulla. Chi? Lui. Se ne vuole andare. Chi te l'ha detto? Ma al contrario. Al contrario. Non se ne vuole andare. M'hai preso per bestia sul serio. Io? Io te lo caccio via però. Ora stesso. Venerina lo trattenne di nuovo, scoppiando questa volta in singhiozzi e buttandoglisi sul petto. Don Paranza sentì mancarsi le gambe. Con la mano rimasta libera accennò il segno della croce. «In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo», sospirò. Vieni qua, figlia mia. Andiamocene nella tua camera e ragioniamo con calma». «Ci perdo la testa». La trasse con sé nell'altra camera, la fece sedere, le porse il fazzoletto perché si asciugasse gli occhi e cominciò a interrogarla paternamente. Frattanto Lars Cleen, che aveva udito dalla sua camera il diverbio tra lo zio e la nipote, senza comprenderne nulla, apriva pian piano l'uscio e sporgeva il capo a guardare, col lume in mano, nella saletta buia. Che era avvenuto? Intese solo i singhiozzi di Venerina, di là, e se ne turbò profondamente. Perché quella lite? E perché piangeva ella così? Il Miglio gli aveva detto che non era possibile che egli stesse nella casa più oltre. Non c'era posto per lui. E poi quella vecchia matta della zia s'era stancata, e la nipote non poteva restar sola con un estraneo in casa. Difficoltà che egli non riusciva a penetrare. Ma tant'altre cose, da che usciva di casa, gli sembravano strane in quel paese. Bisognava partire, senza aspettare il piroscafo, questo era certo. E avrebbe perduto il posto di Nostromo. Partire. Piangeva per questo la sua giovane amica infermiera? Fino a notte avanzata Lars Cleen stette lì, seduto sul letto a pensare, a fantasticare. Gli pareva di vedere la sorella lontana, la vedeva. Ah, lei sola al mondo gli voleva bene ormai. E anche quest'altra fanciulla qua, possibile? Questa? E tu vorresti? Chissà. Ogni qualvolta ritornava in patria, la sorella gli ripeteva che volentieri avrebbe preferito di non rivederlo mai più in vita, se egli, in uno di quei suoi viaggi lontani, si fosse innamorato di una buona ragazza e l'avesse sposata. Tanto strazio le dava il vederlo così, svogliato della vita e rimesso, anzi, abbandonato alla discrezione della sorte, esposto a tutte le vicende, pronto alle più rischiose, senza alcun ritegno d'affetto per sé. Come quella volta che, traversando l'oceano in tempesta, s'era buttato dall'Hammerfest per salvare un compagno. Sì, era vero. E senza alcun merito. Perché la sua vita, per lui, non aveva più prezzo. Ma lì? Ora? Possibile. Questo paesello di mare in Sicilia, così lontano, lontano, era dunque la meta segnata dalla sorte alla sua vita? Era egli giunto, senza alcun sospetto, al suo destino? Per questo s'era ammalato fino a toccare la soglia della morte? Per riprendere lì la via d'una nuova esistenza? Chissà. E tu gli vuoi bene? Concludeva intanto di là Don Pietro, dopo aver strappato a Venerina, che non riusciva a quietarsi, le scarse, incerte notizie che ella aveva dello straniero e la confessione di quegli ingenui passatempi, donde era nato quell'amore fino a quel punto sospeso in aria, come un uccello sulle ali. Venerina s'era nascosto il volto con le mani. «Li vuoi bene?» ripete Don Pietro. «Ci vuol tanto a dir di sì!» «Io non lo so», rispose Venerina tra due singhiozzi. «E invece lo so io», borbottò Don Paranza, levandosi. «Va, va a letto ora, e procura di dormire. Domani, semmai. Ma guarda un po' che nuova professione mi tocca adesso d'esercitare!» E scotendo il capo lanoso, andò a buttarsi sul divanaccio sgangherato. Rimasta sola, Venerina, tutta infocata in volto, con gli occhi sfavillanti, sorrise. Poi si nascose di nuovo il volto con le mani. Se lo tenne stretto stretto, così, e andò a buttarsi sul letto, vestita. Non lo sapeva davvero se lo amava. Ma intanto baciava e stringeva il guanciale del lettuccio. Stordita da quella scena imprevista a cui s'era lasciata tirare, per un malinteso, dal suo amor proprio ferito, non riusciva ancor bene a vedere chiaro in sé, in ciò che era avvenuto. Un senso scottante di vergogna le impediva di rallegrarsi di quella spiegazione con lo zio, forse desiderata inconsciamente dal suo cuore, dopo tanti mesi di sospensione su un pensiero, su un sentimento che non riuscivano quasi a posarsi sulla realtà, ad affermarsi in qualche modo. Ora aveva detto di sì allo zio, e certo avrebbe sentito un gran dolore se il Cleen se ne fosse andato. Sentiva orrore del tedio mortale in cui sarebbe ricaduta, sola sola, nella casa vuota e silenziosa. Era perciò contenta che lo zio fosse ora con lei, di là, a pensare, a escogitare il modo di vincere, se fosse possibile, tutte le difficoltà che avevano fino ad allora tenuto sospeso il suo sentimento. Ma si potevano vincere quelle difficoltà. Il Cleen, pur lì presente, le pareva tanto, tanto lontano. Parlava una lingua che ella non intendeva, aveva nel cuore, negli occhi, un mondo remoto, che ella non indovinava neppure. Come fermarlo lì? Era possibile? E poteva egli aver l'intenzione di fermarsi per lei, tutta la vita, fuori di quel suo mondo? Voleva, sì, restare, ma fino all'arrivo del piroscafo dall'America. Intanto, certo, in patria nessun affetto vivo lo attirava, perché altrimenti, scampato per miracolo alla morte, avrebbe pensato subito a rimpatriare. Se voleva aspettare, era segno che anche lui doveva sentire. Chissà, forse lo stesso affetto per lei, così sospeso e come smarrito nell'incertezza della sorte. Fra altri pensieri si dibatteva Don Pietro, sul divanaccio che strideva con tutte le molle sconnesse. Le molle stridevano e Don Paranza sbuffava. «Pazzi! Pazzi! Come hanno fatto a intendersi, se l'uno non sa una parola della lingua dell'altra? Eppure, sì signori, si sono intesi. Miracoli della pazzia! Si amano! Si amano, senza pensare che i cefali, le boghe, i gronghi dello zio bestione non possono dal mare assumersi la responsabilità e l'incarico di fare le spese del matrimonio e di mantenere una nuova famiglia. Meno male che io... Ma sì, se padron di Nica vorrà saperne. Domani, domani si vedrà. Dormiamo. Faceva affaroni col suo vaporetto Agostino di Nica. Tanto che aveva pensato di allargare il suo commercio fino a Tunisi e Malta e a tale scopo aveva ordinato all'arsenale di Palermo la costruzione di un altro vaporetto, un po' più grande, che potesse servire anche al trasporto dei passeggeri. Forse, seguitava a pensare Don Pietro, un uomo come Larso potrà servirgli. Conosce il francese meglio di me e l'inglese benone. Lupo di mare, poi. O come interprete, o come marinaio, purché me lo imbarchi e gli dia da vivere e da mantenere onestamente la famiglia. Intanto Venerina gli insegnerà a parlare da cristiano. Pare che faccia miracoli lei con la sua scuola. Non posso lasciarli più soli. Domani me lo porto con me da padron di Nica e se la proposta è accettata, egli aspetterà se vuole, ma venendosene con me ogni giorno alla pesca. Se non è accettata, bisogna che parta subito subito, senza remissione. Intanto dormiamo. Ma che dormire! Pareva che le punte delle molle sconnesse fossero diventate più irte quella notte, compenetrate delle difficoltà fra cui Don Paranza si dibatteva. Capitolo 5. Da circa 15 giorni Lars Cleen seguiva mattina e sera il Miglio alla pesca. Usciva di casa con lui, vi ritornava con lui. Padron di Nica, con molti se, con molti ma, aveva accettato la proposta presentatagli dal Miglio come una vera fortuna per lui. E le conseguenze? Il vaporetto nuovo sarebbe stato pronto fra un mese al più, e lui, il Cleen, vi si sarebbe imbarcato in qualità di interprete. A prova, per il primo mese. Venerina aveva fatto intender bene allo zio che il Cleen non s'era ancora spiegato con lei chiaramente, e gli aveva perciò raccomandato di comportarsi con la massima delicatezza, tirandolo prima con ogni circospezione a parlare, a spiegarsi. Il povero Don Paranza, sbuffando più che mai nel cresciuto impiccio, si era recato dapprima solo dal di Nica e, ottenuto il posto, era ritornato a casa a offrirlo al Cleen, soggiungendogli nel suo barbaro francese che, se voleva restare, come gliene aveva espresso il desiderio, se voleva trattenersi fino al ritorno dell'Hammerfest, doveva essere a questo patto, che lavorasse. Il posto, ecco, glielo aveva procurato lui. Quando poi il piroscafo sarebbe arrivato dall'America, ne avrebbe avuti due di posti. E allora, a sua scelta, o questo o quello, quale gli sarebbe convenuto di più. Intanto, nell'attesa, bisognava che andasse con lui ogni giorno alla pesca. Alla proposta il Cleen era rimasto perplesso. Gli era apparso chiaro che la scena di quella sera tra zio e nipote era avvenuto proprio per la sua prossima partenza e che era stato lui perciò la cagione del pianto della sua cara infermiera. Accettare dunque e compromettersi sarebbe stato tutt'uno. Ma come rifiutare quel beneficio, dopo le tante cure e le premure affettuose di lei? Quel beneficio offerto in quel modo, che non lo legava ancora per nulla, che lo lasciava libero di scegliere, libero di mostrarsi o no grato di quanto gli era stato fatto? Ora, ogni mattina, levandosi dal divanaccio con le ossa indolenzite, Don Pietro si esortava così. «Coraggio, Don Paranza! Alla doppia pesca!» E preparava gli attrezzi. Le due canne con le lenze, una per sé, l'altra per Larso, i barattoli dell'esca, gli ami di ricambio. Ecco, sì, per i pesci era ben munito. Ma dove trovare l'occorrente per l'altra pesca, quella al marito per la nipote? Chi glielo dava l'amo per tirarla a parlare? Si fermava in mezzo alla stanza, con le labbra strette, gli occhi sbarrati. Poi scuoteva in aria le mani ed esclamava «L'amo francese!» E già, perché gli toccava per giunta di muovergli nel discorso in francese, quando non avrebbe saputo dirglielo neppure in siciliano. «Monsieur! Maniesse!» E poi? Poteva spiattellargli chiaro e tondo che quella scioccona s'era innamorata o incapricciata di lui? Dalla Norvegia o dal console di Palermo avrebbe avuto il rimborso delle spese, probabilmente. Ma di quest'altro guaio qui, chi lo avrebbe ricompensato? Lui! Lui stesso, porco diavolo! M'ha attizzato il fuoco in casa! Si scotti! Si bruci! Quell'aria da mammalucco, da innocente piovuto dal cielo, gliel'avrebbe fatta smettere lui. E lì, sulla scogliera del porto, mentre riforniva gli ami di nuova esca, si voltava a guardare Larso, che se ne stava seduto su un masso poco discosto, dritto sulla vita, con gli occhi chiari, fissi al sughero della lenza, che galleggiava sull'aspro azzurro dell'acqua luccicante da guzzi tremolii. «Oè, Monsieur Cleen, oè!» Guardare sì, lo guardava, ma lo vedeva poi davvero quel sughero. Pareva allocchito. Il Cleen, all'esclamazione, si riscoteva come da un sogno e gli sorrideva. Poi tirava pian piano dall'acqua la lenza, credendo che il miglio lo avesse richiamato per questo, e riforniva anche lui gli ami chissà da quanto tempo disarmati. Ah, così la pesca andava benone. Anche egli, Don Paranza, pensando e escogitando il modo e la maniera d'entrare a parlargli di quella faccenda così difficile e delicata, si lasciava intanto mangiare l'esca dei pesci. Si distraeva, non vedeva più il sughero, non vedeva più il mare, e solo rientrava in sé quando l'acqua tra gli scogli vicini dava un più forte risucchio. Stizzito, tirava allora la lenza e gli veniva la tentazione di sbatterla in faccia a quell'ingrato. Ma più ira gli suscitava l'esclamazione che il Cleen aveva imparata da lui e ripeteva spesso, sorridendo, nel sollevare a sua volta la canna. «Porco diavolo!» Don Paranza, dimenticandosi in quei momenti di parlargli in francese, prorompeva. «Ma porco diavolo lo dico sul serio io! Tu ridi, minchione! Che te ne importa?» No, no, così non poteva durare. Non conchiudeva nulla, non solo, ma si guastava anche il fegato. Se la sbrighino loro, se vogliono. E lo disse una di quelle sere alla nipote, rincasando dalla pesca. Non s'aspettava che Venerina dovesse accogliere l'irosa dichiarazione dell'insipienza di lui con uno scoppio di risa, tutta rossa e reggiante in viso. «Povero zio!» «Ridi!» «Ma sì!» «Fatto!» Venerina si nascose il volto con le mani, accennando più volte di sì col capo, vivacemente. Don Paranza, pur contento in cuor suo, alleggerito da quel peso quando meno se l'aspettava, montò sulle furie. «Come? E non me ne dici niente? E mi tieni lì per tanti giorni alla tortura? E lui, anche lui, muto come un pesce!» Venerina sollevò la faccia dalle mani. «Non t'ha saputo dir nulla, neanche oggi!» «Pesce, ti dico! Baccalà!» gridò Don Paranza al colmo della stizza. «Ho il fegato grosso così dalla bile di tutti questi giorni!» «Si sarà vergognato», disse Venerina, cercando di scusarlo. «Vergognato? Un uomo!» esclamò Don Pietro. «Ha fatto ridere alle mie spalle tutti i pesci del mare, ha fatto ridere! Dov'è? Chiamalo! Fammelo dire questa sera stessa! Non basta che l'abbia detto a te!» «Ma senza codesti occhiacci!» gli raccomandò Venerina, sorridendo. Don Paranza si placò, scosse il testone lanoso e borbottò nella barba. «Sono proprio... già tu lo sai, meglio di me. Di un po', come hai fatto senza francese?» Venerina arrossì, sollevò appena le spalle, e i neri occhioni le sfavillarono. «Così», disse con ingenua malizia. «E quando?» «Oggi stesso, quando siete tornati a mezzogiorno, dopo il desinare, egli mi prese una mano, io...» «Basta, basta!» brontolò Don Paranza, che in vita sua non aveva mai fatto all'amore. «È pronta la cena? Ora gli parlo io!» Venerina gli si raccomandò di nuovo con gli occhi e scappò via. Don Pietro entrò nella camera del Cleen. Questi se ne stava con la fronte appoggiata ai vetri del balcone, a guardar fuori, ma non vedeva nulla. La piazzetta lì davanti a quell'ora era deserta e buia. I lampioncini a petrolio quella sera riposavano, perché dell'illuminazione del borgo era incaricata la luna. Sentendo aprir l'uscio, il Cleen si voltò di scatto. Chissà che cosa stava pensando. Don Paranza si piantò in mezzo alla camera con le gambe aperte, tentennando il capo. Avrebbe voluto fargli un predicozzo da vecchio zio brontolone. Ma sentì subito la difficoltà d'un discorso in francese consentaneo all'aria burbera a cui già aveva composta la faccia e l'atteggiamento preso. Frenò a stento un solennissimo sbuffo d'impazienza e cominciò. «Monsieur Cleen, maniès m'a dit!» Il Cleen sorrise, timido, smarrito, e chinò leggermente il capo più volte. «Oui!» riprese Don Paranza. «E va bene!» Tese gli indici delle mani e le accostò ripetutamente l'uno all'altro per significare «marito e moglie, uniti!» «Vous et maniès, mariage, oui!» «Si vous voulez», rispose il Cleen, aprendo le mani, come se non fosse ben certo del consenso. «Oh, per me!» scappò a Don Pietro. Si riprese subito. Très heureux, messier Cleen, très heureux. C'est fait. Donnez-moi la main. Si strinsero la mano, e così il matrimonio fu concluso. Ma il Cleen rimase stordito. Sorrideva, sì, d'un timido sorriso, nell'impaccio della strana situazione in cui s'era cacciato senza una volontà ben definita. Gli piaceva, sì, quella bruna siciliana, così vivace, con quegli occhi di sole. Le era gratissimo dell'amorosa assistenza. Le doveva la vita, sì. Ma sua moglie, davvero, già concluso. «Maintenant», riprese Don Paranza nel suo francese, «je vous prie, monsieur Cleen, cherchez d'apprendre notre langue, je vous prie». Venerina venne a picchiare all'uscio con le nocche delle dita. «A cena!» Quella prima sera, a tavola, provarono tutti e tre un grandissimo imbarazzo. Il Cleen pareva caduto dalle nuvole. Venerina, col volto in fiamme, confusa, non riusciva a guardare né il fidanzato né lo zio. Gli occhi le si intorbidivano, incontrando quelli del Cleen, e s'abbassavano subito. Sorrideva per rispondere al sorriso di lui non meno impacciato, ma volentieri sarebbe scappata a chiudersi sola sola in camera, a buttarsi sul letto per piangere. Sì, senza saper perché. «Se non è pazzia questa, non c'è più pazzia al mondo», pensava tra sé dal canto suo Don Paranza, aggrondato, tra le spine anche lui, ingozzando a stento la magra cena. Ma poi, prima il Cleen, con qualche ritegno, lo pregò di tradurre per Venerina un pensiero gentile che egli non avrebbe saputo manifestarle. Quindi Venerina, timida e accesa, lo pregò di ringraziarlo e di dirgli «Che cosa?» domandò Don Paranza, sbarrando tanto d'occhi. E poiché, dopo quel primo scambio di frasi, la conversazione tra i due fidanzati avrebbe voluto continuare attraverso a lui, egli, battendo le pugna sulla tavola, «Oh, insomma!» esclamò. «Che figura ci faccio io? Ingegnatevi tra voi!» Si alzò fra le risa dei due giovani e andò a fumarsi la pipa sul divanaccio, brontolando il suo «porco diavolo» nel barbone lanoso. Capitolo 6. Il vaporetto del Dinica compiva, l'ultima notte di maggio, il suo terzo viaggio da Tunisi. Fra un'ora, verso l'alba, il vaporetto sarebbe approdato al Molo Vecchio. A bordo dormivano tutti, tranne il timoniere a poppa e il secondo di guardia sul ponte di comando. Il Cleen aveva lasciato la sua cuccetta, e da un pezzo, sul cassero, se ne stava a mirare la luna declinante di tra le griselle del Sartiame, che vibrava tutto alle scosse cadenzate della macchina. Provava un senso d'opprimente angustia lì, su quel guscio di noce, in quel mare chiuso. E anche, sì, anche la luna gli pareva più piccola, come se egli la guardasse dalla lontananza di quel suo esilio, mentre ella appariva grande là, sull'oceano, di tra le sartie dell'Hammerfest, donde qualcuno dei suoi compagni forse in quel punto la guardava. Lì, egli con tutto il cuore era vicino. Chi era di guardia a quell'ora sull'Hammerfest? Chiudeva gli occhi e li rivedeva a uno i suoi compagni. Li vedeva salire dai boccaporti. Vedeva col pensiero il suo piroscafo, come se egli proprio vi fosse, bianco di salsedine, maestoso e tutto sonante. Udiva lo squillo della campana di bordo, respirava l'odore particolare della sua antica cuccetta. Vi si chiudeva a pensare, a fantasticare. Poi riapriva gli occhi, e allora non già quello che aveva veduto ricordando e fantasticando gli sembrava un sogno, ma quel mare lì, quel cielo, quel vaporetto, e la sua presente vita. E una tristezza profonda lo invadeva, uno smanioso avvilimento. I suoi nuovi compagni non lo amavano, non lo comprendevano, né volevano comprenderlo. Lo deridevano per il suo modo di pronunziare quelle poche parole d'italiano che già era riuscito a imparare. E lui, per non far peggio, doveva costringere la sua stizza segreta a sorridere di quel volgare stupido dileggio. Ma, pazienza, l'avrebbero smesso col tempo. A poco, egli, con l'uso continuo e l'aiuto di Venerina, avrebbe imparato a parlare correttamente. Ormai era detto. Lì, in quel borgo, lì, su quel guscio e per quel mare, tutta la vita. Incerto come si sentiva ancora nella nuova esistenza, non riusciva a immaginare nulla di preciso per l'avvenire. Può crescere l'albero nell'aria, se ancora scarse e non ben ferme alle radici nella terra? Ma questo era certo, che lì ormai e per sempre la sorte lo aveva trapiantato. L'Hammerfest, che doveva ritornare dall'America tra 6 mesi, non era più ritornato. La sorella, a cui egli aveva scritto per darle notizia della sua malattia mortale e annunziarle il fidanzamento, gli aveva risposto da Trondheim con una lunga lettera piena d'angoscia e di lieta meraviglia e annunziato che l'Hammerfest a New York aveva ricevuto un contrordine ed era stato noleggiato per un viaggio nell'India, come le aveva scritto il marito. Chissà, dunque, se egli l'avrebbe più riveduto. E la sorella? Si alzò per sottrarsi all'oppressione di quei pensieri. Aggiornava. Le stelle erano morte nel cielo crepuscolare. La luna smoriva a poco. Ecco laggiù, ancora accesa, la lanterna verde del molo. Don Paranza e Venerina aspettavano l'arrivo del vaporetto dalla banchina. Nei due giorni che il Cleen stava a Porta Empedocle, Don Pietro non si recava alla pesca. Gli toccava di far la guardia ai fidanzati, poiché quella scimunita di donna Rosolina non s'era voluta prestare neanche a questo. Prima, perché è nubile, e il suo podore si sarebbe scottato al fuoco dell'amore di quei due. Poi, perché quel forestiere le incuteva soggezione. «Avete paura che vi mangi?» le gridava Don Paranza. «Siete un mucchio d'ossa, volete capirlo?» Non voleva capirlo, donna Rosolina, e non s'era voluta disfare di nulla in quell'occasione, neppur d'un anellino, fra tanti che ne aveva, per dimostrare in qualche modo il suo compiacimento alla nipote. «Poi, poi», diceva. Giacché, pure, per forza, un giorno o l'altro, Venerina sarebbe stata l'erede di tutto quanto ella possedeva. Della casa, del poderetto lassù, sotto il monte Cioccafa, degli ori e della mobilia, e anche di quelle 8 coperte di lana che ella aveva intrecciate con le sue proprie mani, nella speranza, non ancora svanita, di schiacciarvi sotto un povero marito. Don Paranza era indignato di quella tirchieria, ma non voleva che Venerina mancasse di rispetto alla zia. «È sorella di tua madre. Io, poi, me ne debbo andare prima di lei per legge di natura, e da me non hai nulla da sperare. Lei ti resterà, e bisogna che te la tenga cara. Le farai fare un po' di corte da tuo marito, e vedrai che gioverà. Del resto, per quel poco che il signore può badare a uno sciocco come me, sei sicura che ci aiuterà?» Erano venuti, infatti, dal consolato della Norvegia, quei pochi quattrinucci per il mantenimento prestato al Cleen. Aveva potuto così comperare alcuni modesti mobili, i più indispensabili, per metter su, alla meglio, la casa degli sposi. Erano anche arrivate da Trondheim le carte del Cleen. Venerina era così lieta e impaziente quella mattina di mostrare al fidanzato la loro nuova casetta già messa in ordine. Ma poco dopo, quando il vaporetto finalmente si fu ormeggiato nel molo e il Cleen poté scenderne, quella sua gioia fu improvvisamente turbata dalla stizza, udendo il saluto che gli altri marinai rivolgevano, quasi miagolando al suo fidanzato. «Bonchon, bonchon!» «Brutti imbecilli!» disse tra i denti, voltandosi a fulminarli con gli occhi. Il Cleen sorrideva, e Venerina si stizzì allora maggiormente. «Ma non sei buono da rompere il grugno a qualcuno? Di un po'! Ti lasci canzonare così, sorridendo, da questi mascalzoni?» «E via!» disse Don Paranza. «Non vedi che scherzano tra compagni?» «E io non voglio», rimbeccò Venerina, accesa di sdegno. «Scherzino tra loro, e non stupidamente, con un forestiere che non può loro rispondere per le rime». Si sentiva, quasi quasi, messa in berlina anche lei. Il Cleen la guardava, e quegli sguardi fieri gli parevano vampate di passione per lui. Gli piaceva quello sdegno. Ma ogni qualvolta gli veniva di manifestarle ciò che sentiva, o di confidarle qualcosa, gli pareva d'urtare contro un muro. E taceva e sorrideva, senza intendere che quella bontà sorridente, in certi casi, non poteva piacere a Venerina. Era colpa sua, intanto, se gli altri erano maleducati, se egli ancora non poteva uscire per le strade, che subito una frotta di monellacci non lo attorniasse. Minacciava, e faceva peggio. Quelli si sbandavano con grida e lazzi e rumori sguaiati. Venerina ne era furibonda. «Storpiene qualcuno! Dà una buona lezione! È possibile che tu debba diventare lo zimbello del paese?» «Bei consigli», sbuffava Don Pietro, «invece di raccomandargli la prudenza. Con questi cani? Il bastone ci vuole, il bastone!» «Smetteranno, smetteranno, sta quieta, appena Lars avrà imparato». «Lars!» gridava Venerina, infuriandosi ora anche contro lo zio che chiamava a quel modo il fidanzato, come tutto il paese. «Ma se è lo stesso», sospirava seccato Don Pietro, alzando le spalle. «Cambiate codesto nome», ripigliava Venerina, esasperata, rivolta al Cleen. Bel piacere sentirsi chiamare la moglie dell'arso. E non ti chiamano adesso la nipote di Don Paranza? Che male c'è? Lui l'arso e io Paranza. Allegramente. Non rideva più ora Venerina nell'insegnare al fidanzato la propria lingua. Certe bili, anzi, ci pigliava. Vedi, gli diceva, si sa che ti burlano se dici così. Chiaro, chiaro. Ci vuol tanto, Maria Santissima. Il povero Cleen, che poteva fare? Sorrideva mansueto e si provava a pronunziar meglio. Ma poi, dopo due giorni, doveva ripartire. E di quelle lezioni, così spesso interrotte, non riusciva a approfittare quanto Venerina avrebbe desiderato. «Sei come l'uovo, caro mio!» Questi dispettucci parevano puerili a Don Pietro, condannato a far la guardia, e se ne infastidiva. La sua presenza, intanto, impacciava peggio il Cleen, che non arrivava ancora a comprendere perché ci fosse bisogno di lui. Non era egli il fidanzato di Venerina? Non poteva uscire solo con lei a passeggiare lassù, sull'altipiano in campagna? Lo aveva proposto un giorno. Ma dalla stessa Venerina si era sentito domandare: «Sei pazzo?» «Perché?» «Qua i fidanzati non si lasciano soli, neppure per un momento.» «Ci vuole il lampione», sbuffava Don Pietro. E il Cleen s'avviliva di tutte queste costrizioni che gli ammiserivano lo spirito e lo intontivano. Cominciava a sentire una sorda irritazione, un segreto rodio nel vedersi trattato, in quel paese, e considerato quasi come uno stupido. E temeva di stupidirsi davvero. Fine seconda parte della novella Lontano. Registrazione di Lisa Caputo, Palermo.